stop peanuts, stop peanuts. Stop peanuts, stop peanuts. Stop peanuts, stop peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Alla console Sandro e Alfredo. Buongiorno e benvenuti anche a questa puntata di Salpinos, che va ad iniziare con un'edizione CM in tiratura limitata, che riguarda uno dei gruppi mitici di Chicago, The Art Ensemble of Chicago per l'appunto, ed Associate Ensemble. Sono registrazioni che ripercorrono tutta una grande carriera dal 78 al 2015, quindi con l'Art Ensemble Chicago nelle sue anche diverse formulazioni, anche con aiuti importanti come quelli di George Lewis al trombone, oppure Matthew Shipp al pianoforte, o Vada da Leo Smith alla tromba, insomma, e altri. Quindi una sorta di testamento musicale per un gruppo che ormai non è più giovanissimo, evidentemente, che in qualche modo va a coronare una carriera che è stata davvero fulminante. Con questo noi allora andiamo a sentire il brano d'apertura, Yeah. What he's going gonna get back to Portland, man. Gonna get back to Jamaica, yeah, yeah, yeah. Questo è il primo brano tratto da questo cofanetto dell'Ensemble Chicago edito ECM, che mette insieme alcuni brani proprio presi da dischi dell'Ensemble Chicago incise come tali. Nice Guys è quello che ascoltavamo, di cui abbiamo tratto questo Ya, poi Full Force, Urban Bashman per esempio, pure The Third Decade. Poi inizia con altri personaggi che hanno ruotato ed erano proprio dell'Ensemble Chicago, come Leo Smith o Lester Bowie o Roscoe Mitchell. Un Ensemble Chicago che ha uno spettro di interpretazioni vastissimo, perché indaga tutta quella che loro chiamano la Great Black Music, la grande musica nera, ovvero sia dal jazz, dall'origine di New Orleans fino all'avanguardia, poi passando per la musica africana, passando per rhythm and blues, passando anche per la musica, abbiamo sentito, caraibica, quella di Bob Marley. Ma un altro momento di questo cofanetto che andiamo a ascoltare, una triste profezia che troviamo dal disco Urban Bashman, il brano New York is full of people on lonely people, New York è piena di gente sola. E questa era New York, è piena di gente sola, dell'Art Ensemble Chicago con la tromba malinconica di Lester Bowie, sicuramente lo musicista più comunicativo del gruppo, mentre Roscoe Mitchell un po' era la testa, l'eminenza grigia, Jarman il terzo sax, poi Malachi Favors al basso, dalla cavata potentissima, e abbiamo alla batteria Don Moyet. Inizialmente era Philly Wilson, poi venne cambiato, dopo un periodo in cui il gruppo rimase senza percussione entrò appunto Don Moyet, grandissimo batterista, e un gruppo che faceva musica teatro, tutti dipinti all'africana, con delle vere scene, scenografie sul palco, molto spesso appoggiandosi sui tamburi africani con un grande effetto scenico, e allora i dischi, in particolare negli anni 60-70, registravano tutto, anche le cose meno discografili, diciamo così, e più visive, ma nel grande materiale c'erano appunto delle perle come quelle che ascoltiamo. L'Art Ensemble Chicago, dunque, è un brano che spesso rincorreva perché era la sigletta di chiusura, Orvala Team, che noi andiamo a ascoltare in questa terza proposta proprio da questo cofanetto dell'ICM. Thank you. E questa era la sigla dei concerti dell'Ensemble Chicago, Valla Team, ancora un brano, questa volta preso dall'album The Third Decade, che ci presenta anche la musicalità del gruppo, il brano è Zero. Questo era Zero, l'ultima proposta che prendiamo da questo cofanetto dell'Art Ensemble Chicago, che è The Art Ensemble Chicago and Associate Ensemble, edito dall'ICM, che appunto è il primo asso di questa trasmissione. Dopo lo stacco pubblicitario andiamo con un altro asso, e come che è un asso, cioè Kay Jarrett. La nostra seconda parte di Salpino si concentra su un disco importante che va a testimoniare la consegna di un premio eccellente a un personaggio che ormai è ampiamente nel mito del jazz, ovvero sia il pianista Kay Jarrett, perché nel 2006 C'è questo premio che viene conferito alla Fenice Veneziana, un premio che ha visto precedentemente figure come Luciano Bierri, Pierre Boulez, Gregory Kurtak, oppure Sophie Guidolin o Steve Reich, e adesso arriva appunto a Cage Jarrett. Cage Jarrett si presenta quindi in un concerto piano solo, che ha alcune cose tipiche di Jarrett, per esempio le ballad. Sentiremo il terzo brano che in sequenza, che appunto rievoca questa indagine sulle ballad che ha portato anni di lavoro a Jarrett. Presenta però anche quelle cavalcate jarrettiane di The Snake, e poi un'apertura del tutto inedita che non ti aspetti, che si avvicina alla musica contemporanea. Quindi sentiamo questi brani che sono divisi né più né meno che part 1, part 4 e parte 5, quindi poco da citare. Ricordo che l'album è ECM La Fenice. Buon ascolto. Thank you.

Thank you. tre brani dal primo del doppio album La Fenice di Jarrett, etichetta ECM, che va appunto a testimoniare la consegna del premio con tanto di concerto di ringraziamento di Jarrett e proprio alla Fenice veneziana. Con questo è tutto, noi ci salutiamo, alla prossima, ciao. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Thank you.